L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata che dedichiamo a innovazione e sostenibilità in ambito alimentare. Lo facciamo perché la settimana scorsa a Cibus, Salone Internazionale dell'Alimentazione, quello di Parma, si è svolta la premiazione del concorso Ecotrofelia, organizzato da Federalimentare per richiamare l'attenzione degli studenti universitari sull'industria alimentare. La richiesta era in particolare di sviluppare progetti di prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente. La competizione ha il patrocinio scientifico di Enea e quest'anno è stata supportata anche dal progetto europeo Food Lab. I vincitori andranno alla finale internazionale Ecotrofelia Europe, che si svolgerà in ottobre a Parigi. Noi cosa facciamo oggi in questa puntata? Vi portiamo al concorso, conosceremo quindi le due squadre finaliste, sentiremo la proclamazione del vincitore, i commenti a caldo e le motivazioni della giuria. Cominciamo quindi dalla squadra del Campus Biomedico di Roma e dalla sua caramella, buona davvero, ottenuta dall'albedo, ovvero il bianco del limone. E infatti il progetto si chiama Albedin. Ti chiami? Marta Maierini. Noi siamo al secondo anno della specialistica in scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana. In particolare questo secondo anno di specialistica si può dividere in due indirizzi, che sono o l'indirizzo clinico, quindi l'aspetto di vista proprio del biologo nutrizionista, oppure l'aspetto tecnologico, che viene chiamato appunto tecnologia alimentare, che è un corso più, diciamo, incentivato sui processi di produzione, sulla microbiologia, la genetica agraria. Quindi ha un indirizzo, diciamo, più rivolto all'industria invece che all'aspetto solamente clinico, diciamo, del biologo nutrizionista. Anche se poi alla fine, diciamo, della laurea magistrale, perché sono 5 anni divisi in 3+2, alla fine comunque saremo iscritti all'albo dei biologi, perché è una facoltà appunto di biologia. Chi presenta il progetto di voi? Laura De Patria. Allora, abbiamo deciso di creare una caramella di gelatina zuccherata partendo da un materiale di scarto dell'industria alimentare, ovvero l'albedo dei limoni. In quanto sarebbe il bianco, detto per quello. Sì, il bianco è un mezzocarpo dei limoni, in quanto appunto è un materiale di scarto delle industrie alimentari che producono magari succhi, caramelle e marmellate a partire dagli agrumi. E quindi rappresenterebbe una materia a basso costo che può essere commercializzata con un'elevata versatilità. E inoltre è un composto, è un ingrediente che contiene un'elevata quantità di fibra, quindi pectina, cellulosa, emicellulosa, e anche ricco di composti funzionali nutrizionalmente importanti. Come è nata l'idea? L'idea, intanto sono Giuliana Provenzale, e l'idea nasce dalla volontà appunto di voler utilizzare come materia prima un materiale di scarto. Cioè, un materiale di scarto che fosse convertito in materia prima proprio per andare a diminuire gli scarti alimentari, tema molto importante che è stato affrontato anche a Expo 2015 lo scorso anno. In questo modo abbiamo potuto riutilizzare quello che in realtà generalmente viene gettato via a livello delle industrie di produzione di succhi di frutta, marmellate, confetture, caramelle e quant'altro, e farlo divenire così una materia prima nobile, proprio perché, come ha detto prima Laura, si presenta come un materiale ricco di fibra. Noi abbiamo presentato prima il prodotto, abbiamo visto come in 100 grammi di prodotto ci siano circa 24,7 grammi di fibra, quindi quasi il 30% di fibra alimentare naturalmente presente nella materia prima. Cerchiamo di promuovere l'eco food, cioè aumentare l'ecosostenibilità proprio partendo da materiali di scarto e aumentando ulteriormente questa sostenibilità utilizzando delle tecnologie di produzione che siano a basso impatto ambientale. Allora, nome? Lucia Testa. Descriviamo questo prodotto. Allora, si presenta in una forma di parallelepipedo e è una caramella di gelatina zuccherata e ha un sapore quindi del limone caratteristico proprio della materia prima ed è di consistenza morbida e ha un gusto equilibrato della nota sia acida che dolce. È ricoperta dello zucchero di canna e però è gradevole anche senza la parte zuccherata. Potrebbero esserci due versioni, diciamo. Sì, anzi abbiamo anche fatto dei cioccolatini, quindi anche come ripieno di altri prodotti dolciari potrebbe essere sicuramente utilizzata. E dicevate che c'è già qualche azienda che è interessata eventualmente a produrre queste caramelle, quindi è fattibile, ecco, non è un... Esatto. Non è un esperimento di laboratorio. No, cioè proprio perché si tratta di una materia di scarto, l'azienda che appunto si occupa sia della produzione di succhi di limone o cose del genere, oppure vabbè di altro, oppure anche aziende di confetteria, queste cose qui si sono dimostrate già interessate pure a queste idee, e quindi siamo già in fase di prototipazione per il futuro, insomma. Che speranze potete, cioè questo premio che cosa significherebbe per voi se lo vinceste? Visto che già comunque avete dei contatti con l'industria, visto che già siete, no, in una fase molto più avanzata, questo premio è un di più, che cosa? Io sono Giulia Gregori. A livello economico ci potrebbe essere per noi un'occasione per investire, diciamo, in altri progetti, sempre nell'ambito alimentare e di ricerca su prodotti innovativi e ecosostenibili. Allora, l'ultima domanda, sei rimasta solo tu, come ti è sembrato il progetto degli altri? Allora, io sono Flavia De Bono. Allora, devo dire che il progetto, come l'hanno realizzato anche a livello proprio di presentazione, sicuramente è stato migliore, nel senso che hanno comunque... Vabbè, sono sincera, nel senso, sono sportiva, come si dice. E anche a livello più alto di marketing economico hanno sicuramente approfondito meglio tutta la questione. Solo che il nostro prodotto, non per ovviamente non è che sono di parte, però è sicuramente più locale, nel senso è molto più italiano come prodotto. Loro magari hanno più una rappresentanza extra, diciamo, italiana. Ed ora passiamo alla squadra della Università di Torino. Qui sono tutti uomini alle prese con gli scarti della produzione del cioccolato, con cui hanno ottenuto un ottimo gelato. Il progetto si chiama ChocoShell. Stefano Ghigo. Corso di studi. Allora, tecnologie alimentari, curriculum ristorazione, e della facoltà di agraria di Grugliasco, che è a due passi da Torino. Chi di voi si incarica di raccontare agli ascoltatori cos'è questo progetto, da come è nato? Buongiorno a tutti, sono Pietro Berrino. Dunque, questo progetto ChocoShell nasce dall'idea di sviluppare un prodotto innovativo sfruttando quelli che sono dei prodotti di scarto della produzione del cacao, quindi la buccia delle fave di cacao, che è un sottoprodotto che deriva appunto dalla lavorazione delle fave e compone il 10% in peso della fava stessa, quindi è un prodotto che è presente in quantità abbondante a livello globale, utilizzarlo come sostituto della materia grassa all'interno di un gelato, pur mantenendo la stessa qualità e le stesse caratteristiche organolettiche di un gelato tradizionale a pieno contenuto di grassi. Quindi questo progetto è nato, è stato sviluppato durante il progetto di tesi del sottoscritto, durante quindi la laurea magistrale, ed è poi sfociato appunto in questa declinazione in un prodotto finito, quindi con packaging, con tutto quello che ne consegue, e abbiamo appunto voluto dare nuova vita a quelli che sono dei sottoprodotti del cacao e introdurli in un prodotto che è già globalmente diffuso, altamente apprezzato, e quindi insomma trovare una nuova vita per un composto che altrimenti finirebbe in fertilizzazione tendenzialmente o alimentazione animale, o comunque un uso molto marginale a livello globale. Ce n'è abbondanza, diciamo così, di questo scarto in Italia? Di questo scarto in Italia le quote attuali non sono ben chiare. Possiamo dire che a livello globale, su una produzione mondiale di 5 milioni di tonnellate di cacao annuale, si hanno 500.000 tonnellate di buccia scartata, perché appunto compone il 10% del peso stesso della fava. Quindi sostanzialmente sì, è un prodotto di cui è un sottoprodotto che è presente in maniera assolutamente abbondante e ampiamente disponibile. Allora, però io non ho capito. No, ho capito il senso grande, okay, diciamo così. Ma ci sono questi scarti, sì. Ok? Cosa succede? Cioè, nel senso, cioè, voi avete inventato, che so, una macchina che li trasforma? Come funziona? Il punto chiave è la reperibilità di questo sottoprodotto. Le aziende che producono cacao importano il cacao che è stato coltivato, raccolto, essiccato nei luoghi di coltivazione. Dopodiché, lavorando il cacao durante il processo di torrefazione, questa buccia viene scartata. Questa buccia, per essere utilizzata come appunto viene impiegata all'interno del nostro prodotto ChocoShell, ha bisogno di essere macinata con dei particolari mulini a sfere per raggiungere una granulometria interessante che non risulta fastidiosa né al palato e al consumo in generale. Quindi il concetto è stato valutare la percentuale di questo sottoprodotto da utilizzare, sono state valutate le prestazioni tecnologiche di questo sottoprodotto, e quindi abbiamo siamo riusciti a ottenere un prodotto finale con qualità paragonabile a un gelato tradizionale, ma a basso contenuto di grassi, quindi un ridotto apporto di calorie, un maggior apporto di fibra e di composti antiossidanti. Quindi è un gelato di qualità con caratteristiche salutistiche di alto livello, o comunque di livello maggiore rispetto a un gelato tradizionale. Quindi l'azienda che volesse utilizzare quegli scarti che ha deve dotarsi di quel particolare mulino, lavorare lo scarto e a quel punto ha un qualcosa che può trasformare. Il sottoprodotto si può utilizzare in diverse declinazioni. Sicuramente non saremo noi gli unici a usufruire di questa scoperta, se vogliamo chiamarlo, comunque della validità di questo sottoprodotto come additivo alimentare. Quello che noi abbiamo creato è una ricetta specifica e un prodotto completo. Noi quello che offriamo è la tecnologia di trasformazione per poter mandare al consumatore finale, sia per uso domestico sia per uso professionale, un composto che altrimenti non sarebbe né reperibile, non sarebbe facilmente reperibile e neanche facilmente utilizzabile, in quanto manca la fase di macinazione. Quindi noi vogliamo essere il tramite tra l'azienda, le aziende produttrici di questo sottoprodotto e il consumatore finale che può giovarne. A chi posso chiedere un parere su quell'altro progetto che avete visto da esperti del settore? Non voglio dire entrare nello specifico. Chi di voi? Ragazzi? Vabbè, Marco Rosso. Beh, io ho ritenuto che un progetto estremamente valido, anche quello della concorrenza. Il prodotto era davvero buono al palato e anche le caratteristiche funzionali del prodotto erano davvero notevoli, quindi anche lì si aveva un notevole vantaggio. Ok, vincere il premio cosa rappresenterebbe per te e per la vostra squadra? Davide Gazzola, allora, sarebbe una grande soddisfazione, perché sviluppare un progetto essendo laureandi, studenti, rappresenta una soddisfazione importante. Inoltre Ecotrofelia permette appunto di confrontarsi, di sviluppare un'idea che altrimenti sarebbe difficilmente realizzabile in proprio. Invece sfruttando questa visibilità, comunque prima italiana e poi anche possibilmente in campo europeo, è uno spunto davvero importante, interessante per giovani studenti. A questo punto facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo tra poco per la proclamazione del vincitore. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo ripercorrendo l'ultima fase del concorso Ecotrofelia, organizzato da Federalimentare e destinato a gruppi di studenti universitari per richiamare la loro attenzione sull'industria alimentare, chiedendo loro di sviluppare progetti con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale. Tra l'altro Federalimentare ha diffuso proprio a Parma, in occasione della Fiera Cibus, i dati sull'investimento in sviluppo e ricerca dell'industria alimentare italiana, e gli investimenti sono a quanto pare dell'8% del fatturato annuo. Si tratta ovviamente di una media. Comunque torniamo ai nostri progetti. Quelli arrivati in finale sono, e li abbiamo presentati poco fa, Albedin, una caramella di gelatina ottenuta con l'albedo o mesocarpo di limoni o cedri, un sottoprodotto solitamente scartato dalle industrie di produzione. Questo progetto è stato presentato da un gruppo di studentesse del campus biomedico di Roma. L'altro progetto in lizza, quindi il concorrente, è ChocoShell, un gelato a basso contenuto di grassi ottenuto con la buccia delle fave di cacao da un gruppo di studenti della Università di Torino. La proclamazione del vincitore, la sentiremo tra pochissimo, è di Giovanni Delle Donne di Federalimentare. Ricordo che la squadra vincitrice del Premio Italia andrà a partecipare alla finale europea a Parigi a ottobre, che si svolgerà durante la fiera del Sial. Allora, adesso diamo la parola al presidente di giuria, il dottor Gulli, che darà un po' le motivazioni della scelta, e poi la dottoressa Flaghe e la professoressa Pittia premieranno le due squadre. Allora, a me sta semplicemente fare i complimenti ad entrambe le squadre, che hanno caratterizzato con grande creatività tipicamente nostra italiana entrambe le proposte. Mi piace sottolineare che entrambe eccellono sicuramente nel gusto, cioè, perché a quello proprio non si può mancare data la nostra italianità, e credo che entrambe abbiano una bella potenzialità di sviluppo, perché c'è sì una ricerca di, diciamo, di atteggiamento eco, ma senza tralasciare alcuni aspetti molto consumer che sono fondamentali per non diventare talebani islamici. E quindi, e lo dice uno che è talebano, però ripeto, il gusto, la creatività e il business che si può sviluppare. Anche in termini di formula mi dicono di dirvi che si può sviluppare ancora molto e migliorare in certe aree. A entrambi passo la parola alla premiazione. Allora, dopo un'attenta valutazione, allora, il primo premio viene conferito al prodotto ChocoShell dell'Università di Torino. Allora si va a Parigi. Si va a Parigi, sì, sì, si vola a Parigi. Sì, sì, assolutamente, sì. È stato una bella cosa per ripagare tutti gli sforzi che sono stati fatti, tanti in così breve tempo, in così poco tempo, perché un mese fa avevamo appena pianificato la cosa, veramente. Ci siamo messi in gruppo, abbiamo meno male che c'era la sua tesi di laurea. Meno male che c'era la sua tesi, sì, già riconoscerà assolutamente questo, assolutamente. No, siamo molto soddisfatti. Sì. Grazie ancora. Grazie ancora, grazie, grazie. Non è andata come molto dispiaciute, un po' sì. È un po' sì, però soddisfatte lo stesso. Andate avanti. Pronte però, per vero? Lavorare e migliorare per il futuro. Perché manca la parte di business, sì, mi pare di capire. Economica. Infatti ci hanno consigliato, magari per portare avanti comunque il progetto, di affiancarci magari a qualche studente di economia che ci può aiutare per quell'ambito. Prendeteli quelli lì. Come hanno fatto loro. Cioè, fatevi dare il contatto. È la parte di industrializzazione probabilmente sulla quale dovete, perché questa è Federalimentare e quindi deve pensare alla parte. Va bene, comunque complimenti a tutti. Grazie, grazie, grazie mille. Ora sappiamo chi sono i vincitori, però ci serve capire meglio il perché di questa scelta. Allora l'abbiamo chiesto a Vito Giampiero Gulli, consigliere di Federalimentare e, come abbiamo sentito, anche presidente della giuria del premio Ecotrofelia. Per quale motivo è stata preferita una squadra rispetto all'altra? Ma fondamentalmente per un motivo, e cioè la completezza della presentazione, perché comunque sempre di business, di proposte di business stiamo parlando, e quindi il caso del cioccolato era molto più completo, sotto, anzi persino troppo, perché nella presentazione hanno tagliato molti pezzi che invece nella brochure, nel dossier, erano persino troppo ritagliati. Forse non era tutta farina del loro sacco, però ben fatto. Lo scoprirete se era farina del loro sacco o no, perché li porterete fino a Parigi, no? Quindi sì, appunto, esatto, avranno tempo di studiarsela se non vada bene. Poi entrambe, come ho detto, hanno sicuramente premiato molto tanto il gusto. È una cosa che io sono alla mia seconda esperienza e vi garantisco che dagli altri paesi manca totalmente. So io cosa ho assaggiato di insetti e grilli. Però e quindi l'italianità non può prescindere dal gusto. Un po' poco eco, se non nei recuperi di bucce, che fossero di fave piuttosto che di limoni. E come abbiamo detto in premiazione, da togliere qualche additivo di troppo. Ah, c'è ancora un po' da lavorare quindi su questo aspetto, però quindi avete premiato il gusto che c'era. Il business perché portare un gelato in Europa è facile. E un gusto che è veramente impressionante. Impressionante. Pensi che a me non piace il cioccolato, mi piacciono i gelati, non mi piace il cioccolato, ma ne avrei mangiato un chilo. Veramente ottimo il gusto. E quello che dicevo prima di prepararsi, di fare, perché a livello europeo la selezione è veramente intensa. Ma quindi loro potranno modificare un po' questa ricetta, diciamo così, da qui a quando andranno a Parigi. Bene, allora speriamo in bocca al lupo, grazie. Ci fermiamo qui per questa puntata. Ancora complimenti ai vincitori e in bocca al lupo per la partecipazione a Ecotrofeglia Europe a Parigi in ottobre, ricordiamo. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.